Italia in controluce, la politica nel tunnel. Eh sì, la politica è ancora nel tunnel in questi giorni, in queste ore. Oggi è il 13 marzo, in studio vi parla Daniele Biacchesi, che coordina e conduce questo programma, che è un approfondimento del giornale radio. Qui con me, e la saluto, Maria Luisa Pezzali, che ha lavorato su questa puntata, su questa edizione di oggi. Grillo sfida Bersani sui social network, lo invita a rinunciare ai rimborsi elettorali. All'interno del Partito Democratico, Renzi invece in questi giorni sfida Bersani sul tema del finanziamento dei partiti. Dunque, il tema dei costi della politica è entrato nel dibattito post-elettorale nelle ore difficili, complicate e convulse in cui si tenta di formare un governo vero del Paese. Ma verso quale direzione la politica deve sostenersi sul piano politico? Un grande fundraising tarato su piccole cifre, dove chi vuole contribuisce a far vivere il suo partito di riferimento, questa può essere un'idea, e come funzionano in Europa i meccanismi di finanziamento della politica. Dunque lo chiediamo anche a voi al 349-238-6666. Dunque, via i rimborsi elettorali, via il finanziamento dei partiti. A questo punto però i partiti come si devono finanziare, come si deve finanziare la politica? 349-238-6666. A scatenare il dibattito, il dossier fornito a Matteo Renzi sui costi dell'apparato del Partito Democratico, 180 dipendenti, alcuni dei quali viene anche pagata la casa, segretari, impiegati, consiglieri, addetti stampa, collaboratori, responsabili settoriali. Allora, chi abbiamo al telefono, Maria Luisa? Buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo in diretta il tesoriere del PD, Antonio Misiani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco Misiani, lei ha contestato i dati di questi contenuti nel dossier che sarebbe nelle mani di Matteo Renzi, ha parlato di un dossier patacca, in che senso? Ma nel senso che se quella è una due diligence, io sono Napoleone. È in realtà un assemblaggio di dati in larga parte sbagliati, fuorvianti. Bastava chiedermi tutte le informazioni necessarie, come può fare chiunque, naturalmente nei limiti imposti dalla normativa sulla privacy. I nostri conti sono su internet, sono certificati, sono disponibili online anche tutti i dati per quanto riguarda il costo e le spese per il personale. Ecco, credo, Renzi, che sia stata un'operazione anche dal punto di vista metodologico. Renzi, ho preso atto con piacere che ha smentito la paternità di questa patacca, sì. Ma è un'operazione che ha evidenti fini di strumentalità politica e che non aiuta, secondo me, invece a discutere seriamente del tema del finanziamento della politica e dei partiti. Oltretutto, gridando allo scandalo, quando i partiti che hanno fondato il Partito Democratico avevano un organico di 330 persone a fine 2007. Noi abbiamo tanti dipendenti sicuramente, ma siamo ad una cifra il 40% inferiore rispetto al livello. Quanto, mi dica in una battuta, quanto costa la macchina del partito? La cifra degli 8 milioni di euro è la cifra corretta? No, il costo azienda, che comprende quello naturalmente contributi, tasse e tutto quanto, è 13 milioni di euro circa, il costo del personale, dei dipendenti, dei collaboratori del Partito Democratico. Ecco, in una battuta finale, lei sarebbe pronto come tesoriere ad un modello di funzionamento basato sul crowdfunding, sul people raising, in cui i piccoli contributi dei privati fanno funzionare la macchina? Ma io sono assolutamente disponibile ad una riforma in Parlamento che riveda radicalmente questo sistema. Trovo per esempio molto interessante la proposta avanzata da Pellegrino Capaldo, che è il concetto appunto del crowdfunding, dell'incentivazione di un finanziamento basato su piccole donazioni fortemente agevolate dal punto di vista fiscale. È una sfida che noi vogliamo raccogliere, siamo pronti ad una discussione a tutto campo sul tema del finanziamento, ma anche sul tema della democrazia dei partiti, perché noi parliamo con una grande attenzione, come giusto che sia, sul tema del finanziamento, di come i partiti si procurano le loro risorse. C'è un tema altrettanto importante, che è la democrazia interna dei partiti, perché o questo paese abbandona il dominio di partiti personali o leaderistici, oppure la nostra democrazia non fa passi in avanti. Bene, grazie Antonio Misiani, era il tesoriere del Partito Democratico in diretta. Intanto sono arrivate, come prevedibili, tantissimi sms, basterebbe che spendessero i soldi nella giusta misura per il bene comune, come accade con il Partito Radicale, dice Michele da Milano. Guido da Bergamo, bisogna ridurre ma non abolire il finanziamento, altrimenti la politica sarà fatta solo dai ricchi. Se Renzi continua in questo sciacallaggio, anche Elegante vedrà vittoria primaria, come se fosse affetto dall'uveite, dice Maria Rosaria Trunfio. La soluzione sarebbe lasciare che fosse il cittadino a scegliere a chi dare il contributo, dice Matteo da Modena, tipo l'otto per il mille. Il finanziamento dei partiti è un modesto problema, dice Giancarlo Monteprandone, ben più grande il costo del bicameralismo simmetrico e tutta quella montagna di euro che ogni anno transita al di là del Tevere. Va abolito il finanziamento ai giornali di partito, dice Giorgio, non quello ai partiti, che va ridotto e controllato nel suo uso, altrimenti è solo demagogia, o segue la tesi oggi di moda. 349 238 6666. Allora, noi abbiamo cercato di capire dove sta il problema, visto che lo scontro è all'interno del PD, e Maria Luisa Pezzali ha intervistato Alberto Bianchi, che è presidente della fondazione Big Bang, che è la fondazione che ha svolto il ruolo di collettivo dei finanziamenti nella campagna elettorale del sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Intanto devo precisare che chi ha gestito la campagna delle primarie dal punto di vista dei finanziamenti e delle spese non è stata la fondazione, se non per una limitata parte, ma è stato il comitato per la candidatura di Matteo Renzi, che è un organo e un ente distinto dalla fondazione. La quasi totalità delle entrate e delle spese della campagna sono state gestite dal comitato. Come? Dal punto di vista delle entrate, con la possibilità che era offerta dal sito di dare benzina al camper. Sono arrivate quindi offerte di varia natura, tra i 5 euro e i 1000 euro, che hanno interamente coperto i costi della campagna. Dal punto di vista delle spese, con spese che sono in corso di documentazione e che verranno entro 10 giorni definitivamente tutte documentate sul sito del comitato. Ci siamo mantenuti ovviamente nell'ambito delle regole che erano state fornite dal Partito Democratico per le primarie, e quindi sia dal punto di vista della raccolta sia dal punto di vista della spesa sotto il tetto dei 200.000 euro. Quanto ha raccolto la fondazione e il comitato? Dunque, il comitato ha raccolto intorno a 200.000 euro, di cui la grandissima parte, cioè il 90%, tramite le donazioni di cui parlavo prima, e il resto tramite bonifici effettuati al conto corrente del comitato. I dati che riguardano la fondazione verranno diffusi entro il 31 di marzo, sia per quanto riguarda il totale dei finanziamenti, sia per quanto riguarda il nome dei finanziatori non assoggettati alla legge della privacy, quindi tutte le società e gli enti verranno pubblicati, e le persone fisiche che hanno dato il loro consenso, e da lì vedremo il conteggio di quanto è stato raccolto e di quanto la fondazione continua a raccogliere, perché la fondazione, ripeto, non ha una attività focalizzata sulla campagna delle primarie di Renzi, ma ha un'attività che va prima e dopo questa campagna. Dice Pierpaolo D'Alessandria, si può dire tutto quello che si vuole su Grillo, perché è stato l'unico a non accettare i soldi pubblici, tutti quanti dovrebbero seguire il suo esempio. Maria Letizia dice, volontariamente con una quota percentuale sullo stipendio o pensione, con l'adesione, come con l'adesione ad un sindacato, più eventuali donazioni, dice Maria Letizia. Non sono d'accordo sull'eliminazione del finanziamento pubblico, dice Anna Aiello, al timore che la politica potrebbe finire nelle mani delle lobby come in America. Ma cosa accade in Europa? Come funziona questo meccanismo del finanziamento dei partiti? Sempre Maria Luisa Pezzali ha intervistato Riccardo Puglisi, economista, insegna alla Bocconi, è un esperto di politica dei finanziamenti. L'idea è che il sistema è un po' più misto. Un caso interessante è quello del sistema inglese, in cui l'ammontare è abbastanza basso, quindi dal punto di vista comparativo l'ammontare dato in termini di finanziamento pubblico è più basso negli altri paesi europei che in Italia, quindi anche da questo punto di vista siamo un po' fuori scala. Il dato interessante del sistema inglese è che viene dato di più al partito d'opposizione, cioè al partito che ha perso. Come dire, cerchiamo di rendere più bilanciato il campo di gioco. Comunque in generale come importi pro capite siamo su livelli più bassi dell'Italia. Anche questo è un dato da tenere presente, come per esempio un dato da tenere presente riguardo a una questione connessa, per esempio quella dello stipendio dei parlamentari. Anche gli stipendi dei parlamentari sono fuori scala. Il sistema del people raising, delle piccole somme provenienti per lo più dai privati, è applicabile al sistema politico italiano? Beh, io penso che sia applicabile, perché dobbiamo tenere presente qual è la situazione attuale del sistema italiano, che è pesantemente basato sul finanziamento pubblico, ed evidentemente a livello di opinione pubblica ogni scandalo relativo al cattivo utilizzo, tanto per usare un eufemismo, del finanziamento pubblico induce a pensare ad altre direzioni. Bene, grazie a Maria Luisa Pezzali, la voce che avete sentito è a Riccardo Puglisi, economista. Tantissimi naturalmente i vostri sms, torneremo domani. Vi ricordo come sempre abbiamo la pagina e il gruppo su Facebook, Twitter, radio24.it, il nostro sito dove potete riascoltare questa e tutte le altre puntate in archivio. Vi ricordo che la email è contoluce@radio24.it.